Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis e bentornati a Mr. Kilowatt, seconda parte dell'intervista con il sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico Stefano Saglia, che completa il quadro che abbiamo cominciato a tratteggiare con lui proprio venerdì. Intanto do il benvenuto al nostro ospite. Buonasera sottosegretario Saglia. Buonasera a voi. Dunque parliamo del decreto legislativo di recepimento della direttiva europea 28/2009. Ieri abbiamo visto un po' l'impostazione generale, questa sera vediamo le critiche sollevate dalle varie associazioni. Allora, provvedimenti criticati. Il più criticato di tutti mi sembra sia questo meccanismo delle aste al ribasso con cui si assegnerebbe l'incentivo per gli impianti che producono energia da rinnovabili e che andrebbe a sostituire l'attuale meccanismo dei certificati verdi. Questo provvedimento delle aste al ribasso per impianti molto grandi, 5-10 megawatt, è stato criticato da molte associazioni e da molte imprese. Le dico che insomma attualmente l'unica che ha dato parere positivo mi risulta sia l'Enel, che è quella con le spalle più grosse e che forse si troverebbe più a suo agio con questi meccanismi. Perché avete fatto questa scelta, che tra l'altro è stata già anche percorsa da altri paesi europei e però è stata poi ritirata? Ma intanto non è una scelta esclusiva, ma come ho detto prima è un doppio binario. Fino a una certa taglia degli impianti resterà un meccanismo di feed-in, cioè di tariffa diciamo fissa, di sostegno, e per gli impianti di più grandi dimensioni si introduce il meccanismo d'asta. Abbiamo voluto introdurre in maniera mixata, quindi non esclusiva, un meccanismo di mercato, perché pensiamo che sugli impianti di grandi dimensioni ci possa essere una competizione che va a sgravare per qualche misura diciamo il sussidio che è ovviamente caricato in bolletta. È una sfida indubbiamente, perché altri paesi... Ma non si poteva ottenere con un altro? In fondo i certificati verdi anche questi sono un meccanismo di mercato, perché proprio le aste? Perché ci sembra corretto fare in modo che anche banche e investitori si abituino a investimenti dove c'è un, diciamo, delle regole di mercato, dove oggi invece ci sono delle garanzie a volte che finanziano anche la rendita. Un altro elemento un po' criticato è questo del, diciamo, dello stop al fotovoltaico in agricoltura. E perché pensate di usare forse il terreno agricolo per la biomassa? Ma se questo fosse l'obiettivo sarebbe una cosa diciamo positiva. Io ho un po' subito questa scelta, devo essere sincero. Stiamo ragionando con le commissioni parlamentari per allargare un po' questo vincolo, perché il vincolo così come è stato individuato, cioè oltre un megawatt non si fa più, è un vincolo molto pesante. È chiaro che questo deriva dal fatto che ci sono stati degli eccessi, sono stati fatti impianti da 50, 100 megawatt addirittura di solare, che sono obiettivamente per i terreni un problema serio, perché creano una speculazione sui terreni agricoli che poi di fatto fa uscire di mercato la possibilità di usare questi terreni per l'attività ad altri allora scopi. Noi stiamo cercando di trovare un criterio che ovviamente magari escluda tutte quelle aree vocate all'agricoltura di qualità, le DOP, le DOC e quant'altro, ma non escludere magari i terreni marginali che comunque non sono utilizzati per le attività agricole. Quindi cerchiamo un compromesso con le commissioni parlamentari per rendere un po' meno pesante questo vincolo, che attualmente nel testo è effettivamente molto forte. C'è anche molta preoccupazione per il fatto che in questo decreto legislativo vengono enunciati molti diciamo principi, in molti casi anche condivisi, ma come dire, poi si rimanda tutta una decretazione di secondo ordine, e poi visto l'aria che tira di questi tempi, insomma, c'è il terrore che questi decreti arrivino tardissimo, le industrie non siano pronte poi al 2013. Cosa ne pensa? Penso che il quadro sia corretto, cioè un decreto legislativo di cornice dal quale poi discendono decreti ministeriali per ogni singola fonte, e questo serve anche diciamo a creare un vincolo duraturo in modo che ci possano essere i piani finanziari. Noi abbiamo messo un anno di tempo per l'emanazione di questi decreti, stiamo ragionando con le regioni e con il Parlamento per ridurre questo lasso di tempo, per cui posso anticipare che introdurremo un limite più contenuto, diciamo di 6 mesi, in modo che poi una volta entrato in vigore il decreto legislativo, 6 mesi successivi ci siano i decreti ministeriali per ogni singola fonte che stabiliscono le tariffe e che quindi possano partire gli investimenti. Ecco, il versante degli incentivi, diciamo di quanto si dà, è uno, l'altro è quello degli obblighi. Penso agli standard energetici nell'edilizia, per esempio, ma soprattutto penso alle quote d'obbligo a cui sono soggetti grandi produttori di energia. Oggi devono produrre almeno il 5% di energia da rinnovabili, però questa quota potrebbe essere aumentata, si potrebbero fare standard più stringenti. Ecco, su questo versante degli obblighi non siete stati un po' deboli? Forse, diciamo, oltre alle lobby dell'energia che fanno rumore, ce ne sono altre un po' silenziose che invece preferiscono, come dire, frenare. Ma guardi, l'esercizio lobbistico su questi argomenti è enorme. Si spreca. Il governo cerca di trovare un equilibrio, perché se la somma degli interessi lobbistici non fa un sistema nazionale. E l'equilibrio è stato quello di non porre un aumento dell'obbligo oggi, ma di tenerlo presente negli anni successivi, quando andremo a verificare gli obiettivi. Ogni due anni verificheremo a che punto siamo arrivati, e quindi non è escluso che poi nel tempo questi obblighi possano aumentare. Per quanto riguarda gli edifici, io riscontro un problema di fondo, che è quello che tutti ci siamo favorevoli, diciamo, all'efficienza energetica, a una modernizzazione anche nei sistemi di costruzione. Devo dire che a livello di sistema delle costruzioni italiano questo non è un... Non è facile obbligare i costruttori a rispettare queste norme, facile, in parole povere. Non è facile assolutamente. Io non voglio pensare che sia una resistenza al cambiamento. Probabilmente non è sufficientemente conveniente, ma anche per lo stesso acquirente dell'abitazione, cioè se passa il principio che la casa si valorizza se contiene, diciamo, questi sistemi di efficienza energetica, allora probabilmente saremo tutti incentivati ad utilizzarli. Grazie Stefano Saglia. Grazie a voi e complimenti per questa sempre bella trasmissione. Grazie. Beh, questo è tutto, l'appuntamento è per domani. Parleremo dei numeri del fotovoltaico, assolutamente imprevedibili, molto superiori alle aspettative anche solo di qualche settimana fa. A domani.